Quando nel 1778 doveva aprirsi in Milano il Regio Ducale Teatro alla Scala, gli impresari decisero di chiedere un'opera per la serata inaugurale del celebre Christoph Willibald Gluck. Era una scelta a modo suo coraggiosa, perché costui, responsabile di una discussa riforma del melodramma che aveva spazzato via buona parte delle bellurie mercantistiche di moda a quell'epoca, era un autore, come dire, d'avanguardia e in quanto tale non proprio più popolare sulla scena milanese e italiana. Dimostrava comunque, la scelta, la capacità di non subordinare ai soli interessi del botteghino quel senso della dignità culturale necessario allora come oggi a chi volesse dirigere un grande teatro. Ma Gluck era impegnato con l'Opera di Parigi, ringraziò per l'onorevole e graditissimo invito, ma dovette, ahimè, declinare. E visto che i tempi stringevano, i responsabili del nuovo teatro si videro costretti a ripiegare su un giovane autore di belle speranze, quell'Antonio Salieri, che in seguito avrebbe saputo trar profitto della lezione gluckiana, ma nel 1778 doveva ancora farsi le ossa. E confezionò infatti l'Europa riconosciuta, un'opera, o meglio una festa teatrale, come si diceva tecnicamente, in cui si riproponevano senza soverchia ricerca d'originalità tutte le convenzioni e le consuetudini in uso. Fu un successo, ma non tale da spingere qualcuno dei 225 anni successivi a riproporre quel dramma a un pubblico qualsivoglia. Il che, per chiunque abbia qualche nozione di storia del teatro musicale e dei suoi rapporti con l'economia dell'intrattenimento, insomma, qualcosa dovrebbe significare. Nemmeno l'ambigua popolarità che il povero Salieri si sarebbe conquistato nell'Ottocento con l'accusa di aver avvelenato Mozart, una calunnia che risale a un atto unico di Pushkin del 1822 e della quale non esistono prove documentarie d'epoca, nemmeno quella ha comportato un recupero della sua produzione. E infatti, quella di martedì dovrebbe essere, salvo errori, la seconda messa in scena in assoluto dell'Europa riconosciuta. La colpa va detto non è neanche tutta di Salieri, che era un musicista discreto. Il fatto è che quelle convenzioni, che allora erano trionfanti, erano destinate a entrare in crisi in tempi straordinariamente brevi. La trasformazione del gusto musicale alla fine del Settecento, una trasformazione in cui tanto Gluck quanto Mozart c'entrano per qualcosa, avrebbe stromesso senza appello dal repertorio tutta la produzione operistica seria dei secoli precedenti. E visto che del gusto nuovo siamo eredi alla lontana anche noi, la condanna si è protratta fino a oggi. In sostanza, per chi non sia un musicologo di professione o non abbia un orecchio particolarmente educato da studi e frequentazioni assidue, per chiunque altro, opere come quella con cui sta per essere inaugurata la Scala dopo il restauro suonano, se è lecito dirlo, inevitabilmente tediose. Non che la prima di dopodomani Dio Scampi sia intesa per un pubblico di musicologi o di raffinati intenditori. Intanto non se ne troverebbero a cercarlo in tutta la città neanche quanti bastano per riempire le prime tre file di poltrone. E poi sappiamo tutti che all'opera oggi non si va per sentire la musica. Non ci sarebbe stato bisogno allo scopo di convocare in teatro le massime autorità dello Stato, salvo quelle che astutamente sono riuscite a trovarsi un impegno concomitante in Cina, per non dire di personaggi quali il presidente della Confederazione Svizzera, il Granduca e la Granduchessa del Lussemburgo, il re e la regina di Norvegia, il presidente della Repubblica Albanese e gli altri pezzi grossi che gremiranno palchi e poltrone. Pezzi grossi si bade, ma non grossissimi. Gente in sostanza che una volta ricevuto l'invito non ha potuto per un motivo o per l'altro sottrarsi, come hanno fatto i veri big, i Bush, i Blair, i Putin, che pure invitati se la son cavata mandando i rispettivi ambasciatori. Sarà una cerimonia, quella di Sant'Ambrogio, dal tono eminentemente autoglorificativo, in cui poca o nulla importanza avrà la musica e molta, moltissima la celebrazione. I convenuti, a partire, se ci sarà, dal presidente Berlusconi, che ama tanto poco il teatro lirico da averlo fatto scrivere sulla sua biografia illustrata, per finire con il principe Emanuele Filiberto, sulla cui competenza intellettuale e culturale può giudicare chiunque, i convenuti saranno chiamati ad attestare l'andata a buon fine del progetto Nuova Scala. Un'impresa assai dubbia sul piano culturale, ne abbiamo parlato spesso, e degna forse più di un Attila che di quella imperatrice Maria Teresa con cui il sindaco in carica ha trovato modestamente modo di paragonarsi, ma un'impresa dai sicuri risvolti mediatici e autoreferenziali, che sono poi quelli che contano di questi tempi. Proprio per sottolineare le pretese in tal senso, d'altronde, è stata riesumata da chissà dove l'opera del vecchio Salieri, stabilendo un artificioso parallelismo tra l'inaugurazione del 1778 e quella di oggi, senza rendersi conto che una cosa è mandare in scena una novità, sia pure una novità destinata a passare di moda a breve, come successe nel 68, e un'altra recuperare un documento d'archivio e per giunta parecchio noioso. Quanti parteciperanno all'evento, in ogni caso, ne ricaveranno quel tanto di esposizione alle telecamere sufficiente per compensare la noia. E in ogni caso potranno consolarsi con il buffet che si dice sarà grandioso. A noi, che senza essere necessariamente degli esperti amiamo comunque il teatro musicale, a noi non resterà che rimpiangere questi 2 anni di scala chiusa, in cui chiunque, senza difficoltà, senza complicazioni maggiori di quella rappresentata da un trasferimento in periferia che si poteva fare benissimo anche in tram, poteva accedere al teatro degli Arcimboldi e godersi l'eterna magia dell'opera a prezzi abbordabili finalmente in un ambiente confortevole e funzionale, senza doverla condividere con tutti i ceffi che considerano la musica soltanto l'appendice inevitabile a un rito mondano di una parata politica. Tutta gente che alla bicocca non si spingeva di certo e che adesso saranno lì a sgomitare nel nuovo vecchio edificio del Piermarini. Adesso che tutto l'ambaradan sta per essere trasferito in centro, noi la scala purtroppo dovremo sognarcela. Pazienza, tanto ne resta in piedi così poco.